Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E di Gloria Guerrera, la nostra redattrice, Valerio Rocchetti, il nostro regista, e soprattutto questa settimana è una puntata condotta da Donato Bendicenti. Benvenuto. Buongiorno a te, grazie di avermi ospitato. Donato è, diciamo così, io lo reputo un amico e soprattutto vorrei ricordare che è stato a lungo un volto noto del TG1 come inviato speciale e anchorman, si dice così, delle principali edizioni. Attualmente si occupa, cura e conduce il Transatlantico, che è una rubrica quotidiana di informazione politica istituzionale di Rai News 24, ma è soprattutto anche professore, docente di comunicazione politica e teorie tecniche del giornalismo televisivo presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo. Ricorderei il suo volume Convincere di Donzelli 2005 come, diciamo così, un testo di comunicazione anche molto interessante. Sto facendo una lunga introduzione sui tuoi aspetti tecnici perché, diciamo così, è da poco giunto in libreria il tuo primo romanzo dal titolo La donna di Parigi, che poi tra l'altro sarebbe pure un titolo abbastanza romantico. Oltre che il plagio di del titolo di un film di Chaplin degli anni 30. Beh, allora com'è che, diciamo così, bisogna ad un certo punto pubblicare un romanzo dopo aver così condotto lunghi anni su altri percorsi? Molto francamente, Filippo, sai, ci sono i bimbi che vogliono fare gli astronauti, quelli che vogliono fare i pompieri, quelli che vogliono fare gli ingegneri nucleari. Io voglio fare lo scrittore di narrativa. E quindi io ho sempre scritto attraversando tutte quelle fasi evolutive che passano dallo scetticismo dei genitori alle pagine fatte leggere di nascosto agli amici o alle prime fidanzatine. Poi c'è stato un incontro fortunato, che è stato quello con Stefano Magagnoli, che è l'editor di Rizzoli, appena arrivato da Mondadori, cui io feci pervenire un altro romanzo in realtà. E lui mi telefonò dopo un mese dicendo: guarda, io sono 6 mesi che sono qui, è la miglior lettura che abbiamo fatto, ti chiamerò. Passarono un paio di mesi, lui mi chiamò e io baldanzosamente e soprattutto con molta emozione, perché la narrativa mette comunque a nudo te stesso, è una cosa molto diversa dalle tecnicalità professionali, anche importanti, anche a loro modo appassionanti, ma è un'altra storia. E io andai, mi ricorderò sempre, a Milano, mangiammo sotto Rizzoli, parlammo per mezz'ora, una mezz'ora in cui lui mi disse quanto è bello questo romanzo, che spero uscirà presto e che si chiamava Onnivodice. Comunque io per primo non te lo pubblico. Io rimasi basito, che insomma venivo da Padova dove era andata a insegnare, rimasi a bocca aperta e lui mi disse: però ti do dei soldi per scriverne uno, Poetica libera. Io in 9 mesi ho scritto questo romanzo è, se mi consenti il paragone non particolarmente elegante, è come quando si invita qualcuno a casa propria, però il rovesciamento della classica situazione della collezione di farfalle. Io con la scusa dell'invito e diciamo seduttivo vorrei proprio invece far vedere la collezione di farfalle. Perché è un romanzo che ha un plot, che ha una trama di giallo psicologico, ma è un romanzo attraverso il quale noi, io, Rizzoli stesso, cercava di far vedere uno stile e un modo di scrivere, di intendere la narrativa. Ma nell'edizione di questo programma l'anno scorso, anche seguendo un pochettino le amicizie e i percorsi delle collaboratrici della radio, abbiamo avuto la fortuna di avere una quindicina di giovani scrittori italiani, e così abbiamo scoperto che l'Italia è piena di 20, diciamo, di una generazione tra i 20 e i 30 anni che scrive romanzi o... Per cui eravamo più o meno arrivati alla conclusione, e te la riassumo così, Donato, che finché c'è letteratura c'è speranza anche per questo paese. Io non sai quanto sia d'accordo, anzi leggo in modo indifferibile l'evoluzione e la quantità della produzione letteraria ad un livello di un mantenimento di temperatura civile e culturale di questo paese. Devo dire, e questo non è esterofilia facile o quella sorta di densità critica un po' anche snobistica, però io di romanzi italiani belli, nell'ultimo anno, e credimi, insomma, passo molto del mio tempo libero a leggere narrativa italiana, ne ho letti pochi, mentre ho letto dei bellissimi romanzi francesi, ho letto degli splendidi romanzi in lingua inglese, sia americani che britannici. Ho letto pochi romanzi, però secondo me c'è una ciclicità. E il fatto che ci siano tanti scrittori giovani pubblicati e curati, no? In un percorso di crescita, mi fa pensare e sperare in una nuova stagione di, non lo so, di Gadda, di Meneghello, di Pasolini, insomma. Sì, ti dirò sinceramente, perché siamo, tu certamente a dei livelli molto maggiori dei miei, ma pure io sto, diciamo, anche se marginalmente, nel mondo della comunicazione. E di tanto in tanto mi viene triste. Non mi fare il pinto marginale a quest'ora. Va bene. Sto parlando a un vice direttore. mentre ci sarei ancora un precario, cioè spero di restarlo sempre. Comunque a volte mi fa tristezza vedere, si accende o si apre un media, si parla di cinema, ci celebriamo come italiani, il cinema italiano, e andiamo De Sica, Fellini. Poi ci celebriamo come artisti, perché siamo proprio artisti, e apriamo un media e ci celebriamo, il massimo a cui riusciamo ad arrivare, la scuola romana, anni 30, o qualche altro nome. Ci celebriamo come couturier, ma sono 40 anni che stiamo sempre con gli stessi nomi. Questo è un paese imbalsamato. Forse l'unico ambito in cui questa specie di pedissico a ripetizione della propria immagine comincia a sbriciolarsi sempre di più, è giustamente l'ambito della letteratura. Ed è, secondo me, apparentemente un passo indietro. Forse in realtà è la riscoperta di un percorso simbolico importante, ma da questa letteratura ci sarà la forza anche per far rinnovare, che so, il cinema, il teatro e quanto altro. La mia grande io sono una persona noiosissima, ho pochi interessi, leggo, vado al cinema e cerco di fare un po' di sport, quindi sul cinema ovviamente il legame tra produzione letteraria che possa essere venduta al cinema e qualità della cinematografia è strettissimo. Adesso non vorrei tornare indietro, però da Il Gattopardo a non lo so, Rocco e i suoi fratelli, alla Terra Trema, cioè adesso casualmente ho citato tre cose di Visconti, però è chiaro che nel momento in cui c'è un bacino importante di letteratura buona, appassionante, colta, originale, da cui trarre soggetti cinematografici, questo non può che far bene. Non può che far bene. Io adesso voglio dire che ho visto Kauska. Di solito il film in generale è peggiore del libro. È peggiore per un fatto di normale fruizione. Insomma, il libro ti puoi fermare, rileggere cinque volte. È vero, puoi anche rivedere un film, però è una fruizione diversa. Io penso che uno dei pochissimi, due, forse c'è un solo film italiano migliore o comunque altrettanto bello del romanzo che da cui era stato tratto, che è Morte a Venezia. Ancora torno su Visconti, giuro che non lo faccio apposta. Mentre per esempio Il deserto dei Tartari di Zurlini, che è un bellissimo film, è molto più brutto nella sua bellezza del romanzo di Buzzati. Però è chiaro che nel momento in cui c'è molta materia in cui affondare le mani, la speranza di non avere soltanto una produzione medio-bassa per quanto riguarda la commedia, con delle punte molto interessanti. Io amo moltissimo Sorrentino e conosco bene Matteo Garrone da ragazzini per questioni tennistiche. Però trovo molto belli i primi film di Sorrentino e altrettanto molto belli i primi film di Garrone, forse meglio di questi due che sono stati premiati. Questa è la prima parte del nostro programma, dove Donato Bendicenti ci sta più o meno così suggerendo che se ci abituassimo a, diciamo così, a leggere meglio, forse la nostra società si abituerebbe anche a fare cose migliori nell'ambito di altre forme espressive, di forme artistiche. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. È di Donato Bendicenti, giornalista parlamentare e autore, è il suo primo romanzo, di La donna di Parigi, pubblicato da Rizzoli. Donato, poi noi chiediamo così ai giornalisti parlamentari di più o meno aiutarci a guardare non tanto quello che avviene nella vita politica, ma quello che è un po' l'immagine del paese che ne ricaviamo. Per esempio, Massimo Franco ci ha detto che secondo lui questo è un paese iroso. Secondo te, dal tuo punto di vista, visto che ti occupi ormai da tanti anni di questo spazio informativo che è dato dalla politica, che immagine di paese ricaviamo? Iroso, sì, nel modo italiano di essere irosi, quindi diciamo così, distrattamente iroso, mi pare così. È un paese che, indipendentemente, diciamo così, dagli equilibri politici, secondo me soffre di una crescente propensione alla rassegnazione. Però capita anche che un tempo, diciamo così, abbiamo sempre praticato un po' il masochismo socio-antropologico come italiani. Qualcuno mi ha detto che nel mondo ci fanno concorrenza gli argentini, che non per caso è una nazione quasi al 30% italiana. Però un tempo era, sì, si poteva anche dire, si riusciva facilmente a dire sì, magari non siamo, che so, fedeli nel matrimonio, ma teniamo la famiglia, siamo un paese di mamme. Amiamo la musica, avevamo, diciamo così, la capacità di dire i nostri difetti, non vinciamo le guerre, non siamo, diciamo, un esempio di popolo militare e militaresco, non abbiamo fasti eponimi da raccontare, diciamo, come altre nazioni, però, che so, amiamo la musica e coltiviamo l'arte. Sono circa 20 anni che noi facciamo fatica a individuare all'interno del sistema Italia delle caratteristiche che ci dicono sì, vabbè, abbiamo dei difetti, però abbiamo anche queste qualità. Perché gira a vuoto culturalmente, dal tuo punto di vista, la macchina Italia? Prima di tutto perché è mal strutturata, poi perché risente moltissimo di logiche di schieramento geopolitico, e questo è per definizione un male. Quindi gli spazi, diciamo così, di tribuna critica tendono a comprimersi e tendono ad essere comunque riferiti o riferibili ad aree di ricerca del consenso. Questo credo sia la spiegazione, diciamo così, di sociologia politica più semplice. Ma qui entra anche, diciamo così, il tuo specifico come docente universitario, perché questa ricerca del consenso ci viene continuamente spiattellato attraverso i sondaggi, come se fossero, per così dire, quello psicometro di cui Carnelutti diceva non l'ha inventato nessuno, quindi... Esatto, il sondaggio non è uno strumento neutro. Il sondaggio è agente. Il presidente Berlusconi, nel 94, disse del suo partito, che sostanzialmente non esisteva, che il giorno dopo la cosiddetta discesa in campo aveva il 9%, e continuò a dichiarare che il consenso presunto e non misurabile, ovviamente, se non attraverso quella rilevazione dell'opinione pubblica che è il sondaggio, era crescente. Ovviamente l'attesa di vittoria o di risultato positivo non è neutro, perché sposta elettori dal quadrante dei possibili sconfitti al carro dei possibili vincitori. Ma spiegaci proprio come docente, perché un concetto, perché non è che bisogna essere grandi, diciamo così, esperti linguisti per sapere che convincere significa vincere insieme. Sì, c'è un trattino. C'è un trattino. E come mai, diciamo così, con la tecnica della convinzione alla fine vince sempre uno solo? Non necessariamente, dipende dal sistema. Ci sono... È chiaro che la politica è liderizzata. Tony Blair, quando arrivò a guidare il New Labour, prese Mandelson e Campbell e gli disse: questo è il gruppo dirigente. Il gruppo dirigente, nelle sue singolarità, parla soltanto se richiesto e sulle sue competenze, e lo speaker sono io. È chiaro che su questo si costruisce una figura politica liderizzata. E questo è il caso di Berlusconi e Veltroni nelle ultime elezioni politiche. Ma un tempo eravamo meno ipocriti, dicevamo cultura, personalità. Adesso non sappiamo neanche cosa applicargli. Il massimo che circola, credo che sia stato Cacciari, che abbia detto populisti. Ma diciamo, sì, è più uno stato d'animo che una Edmondo Berselli ha scritto una cosa estremamente condivisibile come rapporto tra le categorie. Anche una manifestazione riformista come quella del 25 aprile, del 25 ottobre, non può riuscire nel suo intento politico e comunicativo se non ha un aspetto populista e popolarizzato. È il frutto della mediatizzazione della politica, è normale. Beh, a me in realtà, io ci ho partecipato, a me in realtà quello che ha stupito, a differenza di altre manifestazioni di anni anche abbastanza recenti, è che eravamo vestiti tutti allo stesso modo, avevamo tutti più o meno lo stesso logo sulle camicie, e che tutto sommato come fascia d'età, insomma, se non eravamo tutti compagni, poco ci mancava, insomma. Eravamo tanti, però in realtà era fortemente caratterizzato per fascia di classe sociale e per fascia di età, insomma. Io l'ho seguita da studio, mi fido di te, facevo una diretta su questo. No, però me la son fatta da Piazza della Repubblica fino e ho sentito anche il comizio, quindi in realtà era una cosa molto simpatica perché sembrava veramente, diciamo così, una grande gita tra... Però va bene che poi mancavano anche le diversificazioni, che si era deciso, eravamo tutti quanti belli, ordinati e disciplinati, la giornata era bella, faceva anche caldo. Però in realtà quella specie di non arriveremo ad un certo punto, non rischiamo di arrivare attraverso questo meccanismo del convincimento espresso attraverso i sondaggi e le opinioni, questa specie di pane quotidiano di come, siccome la maggioranza pensa così, adeguati perché è meglio anche per te, senza sapere come quella maggioranza si sia formata in base ai rilevamenti. Ad avere tanti bei piccoli ghetti o grandi ghetti in cui tutti quanti staremo radunati per affinità elettive, così ci sentiremo tutti sicuri? Il rischio c'è. E l'esperto di comunicazione, l'esperto di comunicazione politica, che scenario intravede? Guarda, Domenico Mennitti, che è un uomo di destra, da destra storica, diciamo così, che viene dall'MSI e che adesso fa il sindaco a Brindisi, un uomo di rara lucidità, e con cui ogni tanto mi piace conversare, spero che la cosa sia reciproca. Dirige anche una rivista di Azione, ma non la fa più. Noi la pensiamo in modo molto diverso nella vita, però ci piace conversare insieme. E lui sostiene che a un certo punto i sistemi, anche nel senso, diciamo così, della rappresentazione della classe dirigente, automaticamente tendono ad autorigenerarsi. Cioè, quando si tocca il fondo c'è una sorta di rimbalzo automatico e si ritrova una spinta verso l'alto. Io non la penso come lui. Io penso che ci voglia un lavoro formidabile. Allo Stato non ne vedo gli effetti, ma è anche molto presto, nel senso che c'è stata una composizione, riscomposizione e ricomposizione del quadro politico molto rapida. Credo che ci sia da definire un vero progetto riformista da un lato e neocentrista, neoconservatore dall'altro lato, partendo dalle modalità culturali, dall'idea di convivenza civile, dall'idea, mi si passi questo termine, riformista, perché non si è riformisti solo a sinistra, si è riformisti a sinistra e dall'altra parte. Io penso che Sarkozy sia un grandissimo riformista, pur essendo un uomo non di sinistra. Beh sì, è stato detto così spesso e volentieri che sono i grandi conservatori ad essere capaci di grandi atti di ribellione. Basti pensare a due quasi coetanei, De Gaulle e Papa Giovanni XXIII, non erano certamente dei pericolosi riformisti quando venivano scelti per i loro alti incarichi. Nel giro di 4-5 anni uno ha riformato la Repubblica, l'altro ha riformato la Chiesa per chissà quanti anni. Però adesso, diciamo sì, le massime che ci avevi portato te le faccio dire, Donato. Le massime che vi ho portato non erano massime, erano citazioni ovviamente da romanzi. Il primo, la prima citazione è quella che ho messo all'inizio del mio romanzo ed è l'incipit di Herzog di Solbello, che recita: se sono matto per me va benissimo. E la seconda è una frase secondo me straordinaria della cognizione di Gadda, che dice: l'integrale degli attimi fuggenti è l'ora. Diciamo, forse qui bisogna spiegarsi. L'integrale dell'attimo fuggente è l'ora, cioè tanti attimi fuggenti alla fine diventano un progetto, un qualcosa di più. Sì, io credo che ci sia una riconduzione all'unico di esperienze che possono essere apparentemente molto lontane, apparentemente frazionali o addirittura casuali, e che ci sia una pulsione non sempre del tutto conscia, ma secondo me percepita, ad un progetto totalizzante. Questo credo. L'integrale è un concetto matematico, è la declinazione di una funzione, diciamo. E quindi mi piace questa idea della sommatoria di molti momenti apparentemente distanti o incongrui tra loro, che in realtà quasi magicamente o quasi, diciamo così, in modo sovrannaturale poi trovano una dimensione di unicità. Beh, i nostri ascoltatori ci sentiranno o all'inizio della loro giornata domenica oppure alla fine della loro settimana sabato, e forse le due linee guida che Donato Bendicenti ci ha portato possono servire egregiamente per il programma e del giorno e della settimana. Il primo è di Saubello: se sono matto, per me va benissimo. E se inizia... che vuol dire, se si crede in una cosa, anche se apparentemente è, questo è il modo in cui io ovviamente ne faccio esegesi, anche se appare assolutamente paradossale, uno cerca di andare avanti. L'altra, diciamo, sembra più adatta per concludere la settimana, è di Gadda: ricordatevi che l'integrale dell'attimo fuggente è l'ora. Grazie Donato. Grazie a te. Grazie a Gloria Guerrera, grazie a Valerio Rocchetti, grazie a voi che continuate a sentirci, e alla prossima settimana.